tutta la città ne parla. Io mi chiedo, il giudizio che dà Massimo Gramellini quando dice che i prezzi dovrebbero essere il meglio della, dovrebbero rappresentare la moralità, il massimo della moralità, e dovrebbero così insegnare a noi la strada giusta da fare, no? Come si può pretendere che degli individui, degli esseri venuti su in un ambiente educati, anzi istruiti in un ambiente dove la sessualità è repressa, quando non è addirittura additata come un peccato, un qualcosa di fuori dalla natura umana addirittura, no? Come si fa a pensare che questi individui, ripeto, diventino dei santi, delle persone addirittura che indicano la strada agli altri? La natura umana è basata sulla sessualità. In studio Giorgio Zanchini, buongiorno, benvenuti all'ascolto di tutta la città ne parla. L'ascoltatore parte da un articolo di Gramellini che peraltro è stato letto stamane da Ugo Tramballi durante Prima Pagina e che riguarda lo scandalo pedofilia, ma forse l'espressione è sbagliata, ma insomma Gramellini, oltre alle cose citate all'ascoltatore, che ha detto, se l'è in sostanza presa con Padre Lombardi, che è il portavoce vaticano, che aveva affermato che la pedofilia non riguarda solo il clero ma anche ambienti altri, ed è bene occuparsi anche di questi invece che guardare in casa propria, dice Gramellini criticando Padre Lombardi, si guarda nella casa del vicino, nel giardino del vicino, mentre invece bisognerebbe occuparsi di ciò che si fa in casa propria. Noi abbiamo poi ritrovato l'articolo di Padre Lombardi con una nota molto lunga, la citeremo perché è opportuno anche vedere cosa sostiene Padre Lombardi, ma insomma il tema è importante, delicato, ovviamente riguarda e riprende quello che sta accadendo, l'emersione di una serie di abusi e maltrattamenti a Ratisbona, quindi in Germania, ma già oggi si parla di casi in Olanda, in Austria, la paura, il timore del Vaticano che si espanda come un'onda a questa denuncia di abusi e maltrattamenti. E in realtà il tema vero, mi pare, toccarlo lo stesso ascoltatore, è il tema della sessualità, poi il rapporto appunto fra la castità, fra il celibato e gli abusi, se c'è. Hans Küng, grande teologo svizzero, qualche giorno fa ha scritto un fondo in cui in sostanza legava questi due aspetti e diceva la grande diffusione, la diffusione di massa, lui usava questa espressione che è stata peraltro molto criticata, degli abusi sessuali, della pedofilia in seno agli ambienti della Chiesa, soprattutto cattolica, si lega al celibato, cattolica, non soprattutto cattolica, si lega alla questione del celibato, che va dunque abolito. Noi ne discuteremo con varie figure, uomini di Chiesa o ex uomini di chiesa, esperti di questo tema, e ovviamente con il vostro contributo. 335-56-34-296 è il numero per mandarci i vostri sms, 335-56-34-296, la città senza accento, @rai.it per i vostri messaggi di posta elettronica, messaggi che potete scrivere anche sul nostro profilo Facebook, che è La Città Radio 3. Infine vi do il nostro ultimo riferimento, che è lacittà.rai.it, lì troverete le email del giorno, le mail che ci mandate, che insomma pubblichiamo sul nostro sito, così come trovate gli sms sul sito di Radio 3. Io saluto anzitutto Franco Garelli, che insegna sociologia delle religioni e si è occupato nella sua ricerca soprattutto, se non di religioni, ma soprattutto della religione cattolica e della Chiesa in Italia. Garelli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Fra poco vi presento altri interlocutori di questa mattinata, però vorrei cominciare da Garelli per capire se questa sequela, teoria di scandali, denunzie, autodifese della Chiesa, insomma, cosa provocano poi nell'opinione pubblica cattolica del nostro paese? Se colpiscono, in realtà c'è quasi ormai una sorta di sordità e disattenzione. No, no, colpisce molto, colpisce nel segno. Nel senso che la gente è indubbiamente un po' sconcertata, no, di questa ondata di notizie per cui non è che la pedofilia del clero sia un problema limitato agli Stati Uniti o all'Irlanda, ma adesso appunto è emerso in modo rilevante anche in Germania, stanno venendo fuori, si sta aprendo insomma il coperchio della pentola anche in Olanda, e quindi la gente è indubbiamente sconcertata, anche se bisogna dire che si tratta di insomma, di fenomeni non recenti, perlomeno quelli che stanno emergendo in generale. Cioè, c'è una resa dei conti che è data da molto tempo, no? E quindi stanno emergendo appunto scenari per lo più del passato. Però ecco, lo sconcerto si manifesta a vari livelli. Da un lato, come diceva quell'ascoltatore intervenuto, c'è un problema, insomma, qui il clero sta tutta la Chiesa, insomma, danno tutta una serie di indicazioni nel campo della morale sessuale e poi comunque hanno dei problemi rilevanti anche dentro il proprio recinto e quindi ecco, no, c'è il rischio che si alimenti questa immagine di una Chiesa che predica bene e razzola male. Ma dall'altro lato c'è, soprattutto nel centro-nord Europa, ormai si sta dilatando, ecco, questa idea di una Chiesa che forse deve ripensare alcune sue regole interne, perché cioè, o deve essere più restrittiva, ecco, nei confronti delle persone che assume, no, tra i suoi effettivi, o deve comunque tenere presente che non può essere rigida in un campo della morale creando molti problemi anche ai fedeli, insomma, o alla gente che dichiara di appartenere alla religione cattolica. Carelli, la reazione della Chiesa sinora è stata sufficiente? Padre Lombardi parla anche di quella, poi lo leggerò un passaggio del suo articolo, la sua nota. Sì, ma allora, secondo me è stata molto forte, molto netta con il Papa, con Benedetto XVI. Il Papa ne ha fatto una delle questioni del suo pontificato, cioè la pulizia all'interno della Chiesa, no? Su questo aspetto. È stato durissimo quando è andato negli Stati Uniti, ma durissimo nei confronti di questi casi in Irlanda. E quindi direi, da questo punto di vista, c'è proprio una forza, cioè un vigore, ecco, con cui si affronta questo problema. Direi che in Germania in particolare la Chiesa è molto reattiva, molto responsabile e molto reattiva. Ecco, il problema è se tutto ciò crea le condizioni perché oggi non si verifichi più. Questo è il no. Tra l'altro attesa a giorni una lettera pastorale alla Chiesa d'Irlanda da parte del Pontefice, no? Certo. Anche su questo sarà interessante, importante vedere cosa dirà Benedetto XVI. Io saluto Vania Lucia Gaito, che ha scritto un libro che si chiama Viaggio nel silenzio, i preti pedofili e le colpe della Chiesa. Gaito, buongiorno. Buongiorno. E tra l'altro tiene un blog in cui vengono pubblicate anche le denunzie e autodenunzie di quello che accade, no? Sì, anche. Che ha scoperto in questo viaggio, Gaito? Guardi, intanto ho scoperto che non è un fenomeno recente. Basta guardare le indulgenze pubblicate all'epoca da Papa Leone, stiamo parlando del Medioevo, in cui tra le primissime indulgenze, nei primissimi articoli, si diceva che l'ecclesiastico che ha giaciuto con un bambino o con un animale può riscattarsi dalla sua colpa pagando una determinata ammenda. Quindi questo genere di situazioni erano note alla Chiesa, diciamo, fin dal Medioevo. Il fatto che adesso se ne parli come di una scoperta nuova è assolutamente fuori luogo, anche perché esiste, e credo se ne sappia molto poco, esiste una congregazione che sono i Servi del Paraclito, che sono nati nel Nuovo Messico e inizialmente si occupavano di curare, diciamo così, i sacerdoti con disturbi comportamentali, soprattutto alcolisti. Negli anni 50 hanno cominciato ad occuparsi di sacerdoti con disturbi comportamentali di tipo sessuale, soprattutto sacerdoti pedofili. E la cosa particolare è che il padre fondatore di questa congregazione, padre Fitzgerald, non aveva alcuna intenzione di accogliere nel suo convento, diciamo così, questi sacerdoti pedofili, e ha scritto in Vaticano e ha scritto a moltissime istituzioni cattoliche specificando che la redenzione o la cura dei sacerdoti pedofili era impossibile, tant'è che auspicava l'acquisto di una isola nelle isole Bermuda in maniera tale da poter isolare, diciamo, sì, le persone portatori di questo problema all'interno di una realtà più protetta, perché rappresentavano anche per i bambini con cui venivano in contatto all'interno del convento un grave pericolo. Sì. Beh, questa è, devo dire, una cosa che colpisce molto, anche perché se ne è pochissimo parlato sui mass media. Ci sono altri due ospiti che ci stanno ascoltando. Uno è Gianni Gennari, che gli ascoltatori di Radio Rai avranno più volte sentito. È un ex sacerdote, studioso di chiesa, insomma, dai microfoni di Radio 1 si è spesso occupato, insomma, anche un teologo. Gennari, buongiorno. Buongiorno, io contesto l'ex. Prete sempre, non sono in funzione, ma sono in servizio, cioè... Ho chiesto il permesso di sposarmi alla Santa Sede, mi è stato concesso grazie all'intervento del Cardinale Ratzinger presso Giovanni Paolo II e sono felicemente sposato e disponibile al Ministero Sacerdotale, che per ora una legge della Chiesa vieta. Gennari, no, ha fatto benissimo a chiarire su questo punto. Finché c'è questa legge va rispettata, quindi sì, deve essere chiaro che un prete che ritiene di... che si innamora di una persona e ritiene che essa sia un dono di Dio, il matrimonio è un sacramento, ha l'obbligo di fronte alla sua coscienza di chiedere la dispensa e di... Però il problema è, diciamo così, nasconde la realtà. La realtà è duplice. La prima è questa: è che ci sia la pedofilia diffusa nelle file del clero cattolico è una cosa scontata. Tuttavia, se ho capito bene, sì, il discorso di padre Lombardi ieri, lui non ha detto che non c'è, ha detto che essa viene accentuata dalla stampa. Guardi, Gennari, la fermo perché leggo proprio riga per riga, non sono tante, così gli ascoltatori hanno chiaro quello che è stato detto. Sì. Dopo un preambolo in cui diceva che la Chiesa ha affrontato il manifestarsi del problema con tempestività, decisione e trasparenza, aggiungeva: l'azione della Chiesa in una problematica più ampia che riguarda la tutela dei bambini e dei giovani dagli abusi sessuali nella società. Gli errori compiuti nelle istituzioni ecclesiali certamente sono particolarmente riprovevoli, data la responsabilità educativa e morale della Chiesa, ma concentrare le accuse sulla Chiesa porta a falsare la prospettiva. In Austria, ad esempio, in uno stesso periodo di tempo, i casi accertati in istituzioni riconducibili alla Chiesa sono stati 17, mentre ve ne sono stati altri 510 in altri ambienti. Credo che questo sia l'elemento fondamentale. Si parla di questo solo, guarda, l'altro ieri persino sull'Unità un lettore diceva: ma che capita solo ai preti? L'altro ieri, sempre sul Libera, Luigi Accattoli, che è il più noto dei vaticanisti italiani, diceva che in Germania dal 1955 sono stati denunciati, leggo testualmente, sì, 210.000 casi di abusi su minori, e quelli coinvolgenti la Chiesa e quindi i preti sono 94. Allora, su 200.000, 94. Ciò non toglie, e questa è la seconda parte del discorso, sì, che la sessuofobia nella Chiesa esiste da 2000 anni e fa danni da 2000 anni. Uno dei frutti della sessuofobia nella Chiesa è l'obbligatorietà del legame tra celibato e ministero sacerdotale, che Gesù non si è mai sognato. Si sa benissimo che per più di un millennio la Chiesa ha avuto preti felicemente sposati, vescovi felicemente sposati, papi sposati. Noi abbiamo avuto 4 papi, 2 figli di preti, due figli di preti e 2 figli di papi. Pietro e altri apostoli erano sposati, Gennari, no? Quindi il discorso è grosso. Il discorso oggi è una chiamata a una riflessione profonda che non si è mai fatta. In concilio fu vietato di discutere sul celibato. È importantissimo ritornare, perché la sessuofobia, che porta poi evidentemente, soprattutto nelle convivenze dove ci sono solo maschi, eccetera, comporta dei danni terribili. Mi diceva una persona che conosco bene, che Don Armando Corsi, un prete fiorentino, sì, che ha dedicato tutta la sua vita alla redenzione delle prostitute, eccetera, raccontava che da ragazzino il prete in confessionale lo toccava e lui non aveva il coraggio. Allora, siamo di fronte a una piaga che riguarda tutta la società, 200.000 contro 94, ma che per quello che riguarda la Chiesa comporta un ripensamento radicale dell'atteggiamento verso la sessualità, quindi verso la donna. Ed è l'ultima cosa che, sì, dico, perdonami, ma ed è assolutamente interessante che su questo è il discorso della contraccezione, per esempio, che è frutto di una mentalità in cui c'è tanta sessuofobia, c'è tanta paura del corpo e della donna. Giovanni Paolo II ha messo le basi per un superamento, sia, anche se lui non l'ha fatto, sia della legge del celibato obbligatorio, sia addirittura del problema del ministero alle donne, perché, ed è l'ultima cosa appunto dico, si dice che la Chiesa non ha il potere di fare diversamente da come si è comportato Gesù riguardo al sacerdozio femminile. Benissimo, ma riguardo al sacerdozio maschile ha avuto il potere di inventarsi una legge del celibato che Gesù non si era neppure sognato. Allora il discorso riguarda la possibilità all'interno della Chiesa, in luoghi di responsabilità, di riflettere su questo drammatico problema che tocca fino in fondo la credibilità. Queste parole di Gennari sono molto simili a quelle di Hans Kung, c'è stato un articolo di qualche giorno fa proprio sul celibato. Sì, ed è l'unico punto su cui sono vicino ad Hans Kung, perché lui poi su temi fondamentali della fede cattolica si è allontanato, sì, ed è andato per Gennari conto la suo. Fermo per un momento perché volevo sentire anche la voce di Antonio Marziale, che è un sociologo ma è soprattutto il presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori. Marziale, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, bentrovati. Io non vorrei poi concentrare, anche perché il tema della sessualità è importantissimo, lo tratteremo poi nella seconda parte anche con una figura di studiosa che si è occupata di questi temi, ma non vorrei concentrarmi solo su questo, però ho capito che è veramente un nodo, ovvero sia quanto contribuisca, Hans Kung stesso ne parla, quanto contribuisca il celibato e quindi la sublimazione sessuale, quale rapporto ci sia, se c'è insomma, con gli abusi sessuali. Lei appunto conosce il mondo dei minori e purtroppo degli abusi sui minori, quindi qualche dato e qualche opinione su questo tema ce l'ha, Marziale. Sì, guardi, indubbiamente noi non possiamo far finta di essere degli automi meccanici, siamo degli esseri umani. Ogni essere umano ha una sua capacità culturale di progredire che in qualche modo frena, fa da melatonina a quelli che sono gli impulsi e gli istinti sessuali naturali. Io credo che parlare nel 2010 di demonizzazione della sessualità sia fuori luogo in ogni contesto, quindi anche in un contesto trascendentale, religioso, che dir si voglia. Il problema è che la sessualità non viene debitamente affrontata come elemento naturale nella vita degli uomini. Se non ci fosse la sessualità, perdonate il mio essere frivolo in questa considerazione, scontato non ci saremmo noi. Noi nasciamo grazie a un atto sessuale. Quindi demonizzare quello che in buona sostanza è lo strumento che Dio ha dato agli esseri umani per procreare mi pare che sia qualcosa di medievale che debba essere sconfitto in ogni contesto, a livello laico nelle scuole, perché da anni per esempio noi stiamo cercando di persuadere i vari ministri che si succedono in Viale Trastevere a cominciare a pensare a percorsi organici di educazione sessuale nelle scuole, ma per quanto riguarda per esempio la formazione di chi è vocato a diventare sacerdote, la cosa diventa ancora molto più sensibile, se vogliamo, perché ancora purtroppo la donna viene vista, forse esagero, ma come porta dell'inferno, e tutto questo deve finire, deve cessare, perché se c'è un ricentraggio della comprensione di quello che è la sessualità anche in quei luoghi, noi avremmo meno devianza, noi avremmo sicuramente meno pedofilia. Io sono un cattolico, sono cresciuto nelle file dell'Azione Cattolica, della Gioventù Francescana, sono stato a contatto con preti sin da bambino, devo dire ad onor del vero, per un fatto di coscienza, che non mi è mai capitato nella mia esperienza di bambino di adolescente che cresce nel contesto socializzante della Chiesa di avere mai impattato un sacerdote che abbia mai fatto intendere o comunque che abbia mai tentato di abusare di me o degli altri miei amichetti. Quindi voglio dire, io sono cresciuto in un ambiente dove sì, la Chiesa significa socialmente molto, la Calabria è tutto, dove non ci sono infrastrutture, quindi la Chiesa ottempera in maniera socializzante quasi a tutto. Certo è, e non possiamo far finta di niente, che il celibato è una delle pietre miliari per quanto riguarda, ecco, un drenaggio di questa fenomenologia che, vorrei ricordare a tutti, non stiamo parlando di una fenomenologia sociologica letteraria, noi stiamo parlando di un crimine contro l'umanità, e quando viene perpetrato da uomini che esercitano un mestiere tra virgolette etico, certo l'opinione pubblica ne risente di più, anche in termini, se vogliamo, di fiducia globale in quella che è un percorso di fede, un percorso di crescita religioso individuale. E quindi, guardi, obiettivamente non voglio ancorarmi alle statistiche, perché dire c'è più pedofilia nella Chiesa che altrove è un alibi, oppure viceversa, è semplicemente un alibi. Noi dobbiamo affrontare il problema empiricamente, praticamente, sì, per quello che è, e secondo me la rimozione del celibato potrebbe essere statisticamente uno dei punti di drenaggio di questa fenomenologia all'interno delle mura della Chiesa. 335-5634-296 per i vostri sms, la città senza accento @rai.it per i vostri messaggi di posta elettronica. Stavo scorrendo alcuni che cercano di analizzare il rapporto che c'è appunto fra pedofilia, sessualità, celibato, poi ne leggerò qualcuno. Volevo però tornare, nel frattempo ci ha salutato Franco Garelli, da Vania Lucia Gaito, perché in questo suo libro Viaggio nel silenzio, i preti pedofili, credo che abbia anche esplorato quello che accade, cioè il tema dell'omosessualità nella Chiesa, no Gaito? Sì, il tema dell'omosessualità, che è strettamente correlato al tema della pedofilia, non perché l'omosessualità porti alla pedofilia come si cerca di insinuare da più parti, assolutamente, ma è collegato al tipo di educazione che viene impartita nei seminari. Intanto si crea all'interno di un ambiente diciamo a sesso unico, come può essere il seminario, quella che è un fenomeno che capita anche nelle navi di lungo corso oppure nelle prigioni. Praticamente diventa omosessuale situazionale una persona anche che normalmente non è portata all'omosessualità, cioè non è realmente tutti maschili. L'esercito stesso si diceva che fosse uno di questi luoghi di rifugio, diciamo così, oppure di, appunto, di omosessualità situazionale, come l'ha definita lei, Gaito. Sì, un tipo di omosessualità appunto differente, perché mancando l'oggetto sessuale primario, cioè mancando l'accesso alla donna, la pulsione sessuale trova uno sfogo di carattere differente. Intanto questo. Poi il tipo di educazione, come diceva giustamente l'ospite che ha Marziale parlato poco fa, esatto, come diceva giustamente Marziale, il fatto che all'interno di una struttura chiusa, come può essere un seminario, dove ci vanno anche, in Italia esistono ancora 123 seminari minori, vuol dire che ci accedono i ragazzini delle scuole medie, anche se le Nazioni Unite hanno adottato la carta del fanciullo, che prevede che il fanciullo venga educato all'interno della sua famiglia, carta del fanciullo che ovviamente il Vaticano non ha mai sottoscritto, però ha fatto chiudere seminari minori in diversi punti del mondo. In Italia ne sopravvivono 123. Questo vuol dire che ragazzini delle scuole medie si trovano rinchiusi in un ambiente a sesso unico, quindi solo maschi, e con una caratterizzazione tutt'oggi fortemente sessuofobica, dove la figura della donna... Prego? No, stavo chiosando quanto stava dicendo lei, vada. Dove la figura della donna è connotata fortemente in due modi: o la donna, la Maria Immacolata, la Madre di Dio, pulita da ogni peccato, nata senza peccato originale, eccetera, oppure Eva. Si crea una scissione nell'immaginario, soprattutto di un bambino molto, molto piccolo, che di conseguenza con la sessualità è ancora alle primissime armi, quindi non conosce il mondo, non ha ancora le spinte pulsionali adolescenziali. Si crea una scissione nella mente di questo bambino, che porta a una angoscia nei confronti della donna. Non a caso, guardi, Gaito, ci stanno arrivando diversi messaggi che insistono molto, a parte sui danni della sessuofobia bimillenaria, come ha detto Gennari, ma anche sul fatto di quanto sia importante un'educazione sessuale nelle scuole, perché questo è uno degli elementi che mi pare colpisca di più l'opinione pubblica. Io volevo tornare da Gianni Gennari, sei ancora con noi, Gennari? Perché ci sono due temi che mi sembra gli ascoltatori stiano ponendo sul piatto, diciamo così. Il primo è in realtà dal caso irlandese, che è forse il più grave di tutti, a quello americano, a quelli centroeuropei di cui stiamo parlando in queste ore, c'è una valanga che rischia, non voglio dire di travolgere, ma insomma di incidere fortemente sulla credibilità della Chiesa. La reazione qual è, quale dovrebbe essere? Poi il secondo tema è quello di nuovo del celibato. Mi sembra che anche su questo gli ascoltatori ci stiano scrivendo moltissimo, e questo è il nodo. Gennari, questi due punti. Senti, la prima cosa brevissima, mi ricollego a quello che diceva Marziali, il discorso dell'educazione sessuale. Nel 1979 io insegnavo religione felicissimamente al liceo Giulio Cesare di Roma, semplicemente per aver consentito col preside a fare un corso di educazione sessuale alle terze liceo, 1979, mi fu tolta il permesso di insegnare religione. Sì. Quindi questo per dire i ritardi, però deve essere chiaro che il celibato, se è vissuto bene, se è vissuto felicemente, non è un qualcosa di negativo. È la stessa cosa della è la sessualità che è vissuta male sia nel celibato che nel matrimonio che in altri tipi di relazioni diventa drammatica. In questo senso il discorso dei seminari è importantissimo. Io sono entrato in seminario a 16 anni. Mi sono trovato in una comunità in cui c'erano tutti maschi, a parte il fatto che ci costringevano a lavarci col grembiule fino al collo, eccetera, eccetera, a toglierci addirittura i pantaloni dentro il letto, cose che erano... Sì, ma chiaro. C'era il direttore spirituale, che per conto suo era un sant'uomo, che diceva sempre attenti alle amicizie particolari. Io ricordo che una volta andai da lui e dissi: scusi, si può sapere che cosa sono queste amicizie particolari? E lui mi disse: non lo sai? Beh, allora è meglio che non lo sappia. Ma allora lei la pianti di parlarne, gli dissi. Cioè, è inutile che lei... Allora, il discorso è profondo. Il tema della donna, mi viene da ripensare, nel 1978 le donne del PC di allora mi chiesero uno studio sulla storia del cristianesimo e della donna, e per Donne e Politica, che era una rivista dell'UDI di allora, scrisse un saggio facendo rilevare come l'antifemminismo è molto più antico del cristianesimo, è rimasto nel cristianesimo, è rimasto in particolare nel cattolicesimo, ma è anche tipico di tutte le culture, chiamiamole secolari. La donna angelo del focolare l'ha inventata Giuseppe Mazzini. Marx con le donne è stato drammaticamente negativo. Allora il problema, certo, c'è all'origine, c'è addirittura un testo nell'Apocalisse: questi beati sono quelli che non si sono sporcati con le donne, e qui cum mulieribus non sunt coinquinati. Quindi il tema dell'antifemminismo, tipico delle culture antiche, quella persiana, quella greca, quella romana, è rimasta anche nel cristianesimo. Però allora, chi ha inventato il celibato? Chi ha inventato? Gesù ha parlato di un dono che viene dall'alto, anoten dice, che viene dall'alto, a coloro, la rinuncia per il regno dei cieli. Ed è una cosa bellissima. Io ho conosciuto dei meravigliosi preti celibi, fedeli al celibato, in pienezza, ma gioiosamente, non con i contraccolpi che poi li portano ad altre cose. Ripeto, la legge del celibato c'è, e finché c'è, se un prete ha promesso, la deve osservare. Se non la può o ritiene di non osservarla, deve chiedere la dispensa e deve smettere di essere prete in funzione. Può rimanere prete in servizio, lo dice lo stesso sì. Il codice di diritto canonico, in casi eccezionali. A me è capitato di dare l'estrema unzione anche a colleghi, di dare la soluzione in articolo mortis anche a colleghi che me l'hanno chiesto, perché prete sono e prete resto. Il problema di fondo allora è vedere come si può tornare a una disciplina nella Chiesa che di fatto c'è, perché ci sono migliaia di preti sposati cattolici, a parte quelli che hanno dovuto lasciare il ministero, ma nelle chiese orientali cattoliche ci sono migliaia di preti sposati cattolici, felicemente preti e felicemente sposati. E il Concilio ha detto che essi non sono né meno preti né meno buoni preti dei preti celibi. No, Gennari, questo allora, è un punto. È un ripensamento gigantesco, che la Chiesa è, a mio parere, la Chiesa, quando dico Chiesa intendo in questo caso la Santa Sede, la gerarchia, sono obbligati a fare. È un'occasione, il Kairos direbbe la Scrittura, l'occasione per un ripensamento. No, Gennari, questo punto mi sembra molto chiaro. Grazie a Gianni Gennari, grazie a Vania Lucia Gaito. Resta con noi Antonio Marziali, ci sta per raggiungere Silvia Veggetti Finzi. Volevo chiudere questa prima parte con un'email di Elio da Campobasso. L'intervento di Padre Lombardi non convince, perché se è vero che la pedofilia è diffusa in tutta la società, è pur vero che i preti cattolici predicano una morale di vita e catechizzano i bambini e ne ricevono le confessioni, cosa che i pedofili laici non fanno, e si dovrebbe essere per questo al di sopra di ogni sospetto. Il fenomeno è forse molto diffuso e forse da sempre tra i preti cattolici, costretti a reprimere la sessualità naturale da una norma che non trova riscontro nel magistero di Gesù, come ci ha appena detto Gennari. La regola è forse stata imposta da un papa impotente, questa è una considerazione successiva, in realtà è figlia di un concilio che arriva vari secoli dopo Gesù, e poi ho anche la fonte che vi citerò. 335-6-56-34-296 per gli sms, la città senza accento, @rai.it. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me. Try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me. Susan Vega che canta Luca. 1987 è la storia della violenza su un bambino, almeno questo raccontano i versi di questa canzone. Noi stiamo parlando più che di pedofilia, di sessualità e chiesa in relazione alle denunce che stanno emergendo, soprattutto nei paesi del centro Europa, se ne parla in questi giorni. Anche un articolo di Gramellini sulla Stampa che biasimava la linea di difesa di Padre Lombardi, portavoce del Vaticano, sulla questione pedofilia, in cui in sostanza diceva: guardate che se ne parla moltissimo, in realtà c'è molta trasparenza all'interno della Chiesa Cattolica, guardate anche altri ambienti dove c'è molta meno severità e trasparenza. 335-5634-296 scusate per gli sms, la città senza accento @rai.it. Stavo scorrendo email e sms, c'era un sms interessante di un uomo da Ivrea che ci diceva: non abbiate una posizione manichea, guardate che io che ho frequentato ambienti, seminari, ambienti della chiesa, dipende molto dai contesti, in realtà si parlava di sessualità anche con il sacerdote, erano ambienti molto aperti, così come tra le mail cito Nicola che dice: vorrei intervenire sul ragionamento del rapporto tra celibato sacerdotale e pedofilia, ovvero se i preti si sposassero diminuirebbero i casi di pedofilia. Non è una soluzione semplicistica, mi sembra che i casi di pedofilia siano in numero molto maggiore nel mondo degli sposati che nel mondo dei celibi, che è la posizione poi di la posizione dei padri Lombardi. Lasciamo stare le sacre scritture, anche quelle sono state stravolte. No, c'era un paio di consigli di lettura, suggerisco la lettura del numero della rivista teologica Concilium, il numero 3 del 2004, perché c'è una monografia proprio su questi temi, così come alla domanda degli ascoltatori su quando nasca il celibato, la risposta di Kung, che insomma, anche se ha rapporti difficili con la Chiesa ufficiale, è comunque pur sempre uno dei teologi più autorevoli del mondo. La regola del celibato non esisteva ancora nel primo millennio, fu imposta nell'undicesimo secolo sotto l'influsso dei monaci volontariamente celibi, soprattutto del Papa di Canossa, Gregorio VII, a fronte della decisa opposizione del clero in Italia e ancor più in Germania, ove solo 3 vescovi si arrischiarono a proclamare il decreto di Roma. Ma io tornerei alla telefonata dalla quale siamo partiti, andata in onda stamattina a Prima Pagina, in cui si diceva: ma come può un uomo celibe, un uomo che quindi abolisce una delle funzioni primarie per gli esseri umani, ovvero sia la sessualità, essere un maestro di vita? Ed è una domanda che si stanno ponendo in tanti. Io provo a girarla, anche se capisco che richiederebbe un volume per rispondere, a Silvia Vegetti Finzi, che è una psicologa, insegna psicologia dinamica all'Università di Pavia. Vegetti Finzi, buongiorno. Buongiorno a voi. È un po' complessa. È una domanda molto complessa, veramente. C'è però un meccanismo che la psicanalisi ci insegna, che è quello della sublimazione. Cioè è possibile, non è difficile, ma possibile che le energie sessuali vengano distolte dalla meta naturale, che è quella della sessualità riproduttiva, e vengano incanalate, neutralizzate, incanalate verso obiettivi superiori che vengono premiati dalla società e valorizzati dall'etica. Non si può buttare via tutto il processo di sublimazione su cui si basa la nostra cultura, la nostra civilizzazione, perché effettivamente esistono delle gravi deviazioni, delle gravi perturbazioni di questo meccanismo. Però tuttavia questo è un meccanismo che esiste e che ha dato dei grandi risultati, dei grandi progressi, ecco, perché non è solo il sacerdote, ma chiunque si stia impegnando in un'opera molto impegnativa, in un'opera che lo coinvolge, lo fa con energie sessuali, perché tutte le energie sono la stessa cosa. Abbiamo un patrimonio energetico che, se lo incanaliamo verso obiettivi lontani, ma dico anche lo studio, una carriera professionale, lo sottraiamo alla sessualità. Tutto questo processo poi può essere in ogni momento perturbato, ma ciò nonostante è un processo molto importante che non possiamo assolutamente sottovalutare. Credo su questo occorra mettere l'accento, Vegetti Finzi, cioè sul fatto che libido e desiderio possono appunto essere investiti anche in altri campi, non necessariamente. Certo, che poi vengono premiati socialmente, di solito almeno, sempre meno, ma è stato così, con dignità, con prestigio, con riconoscimenti vari. Cioè, pensi, tutti i riconoscimenti, tipo il premio Nobel, vengono dati a persone che hanno investito gran parte delle energie della loro vita in progetti socialmente utili, socialmente importanti, e si danno dei riconoscimenti. Quello che è cambiato, secondo me, è il fatto che una volta le deviazioni sessuali erano controllate dall'esterno. Se lei pensa, fino agli anni 50 una ragazza per bene non usciva da sola la sera. Sì. Quindi c'era un controllo sociale, pensi quante persone nei piccoli paesi controllavano la sessualità dei giovani, no? Occhiute o presenze. Ora la sessualità è stata lasciata alla gestione di ciascuno, è un controllo interiore che dobbiamo fare, nessuno ci impedisce in modo poliziesco di avere delle relazioni, di uscire, di provare delle esperienze, ma non si è rafforzata la morale interiore, venuta meno quella esteriore, pensi anche le mamme che controllo facevano sui figli, e però venuta meno questa, diciamo, moralità eterodiretta, che non era forse il massimo e non la vorremmo più, però aveva una sua funzione, e non è subentrata sufficientemente una morale interiore, una morale che ciascuno esercita su se stesso, nel senso di riconoscere il limite. Queste deviazioni sessuali sono un effetto di una società che non riconosce i limiti, basta pensare alla finanza, questo arricchimento infinito di denaro su denaro, è un segno appunto di un mondo che non sa più riconoscere il limite. Però crede, e la misura. Lei crede che questo possa riguardare anche un mondo, diciamo, che è separato, diciamo, dal mondo mainstream, diciamo così, cioè quello dei sacerdoti? Io credo che i sacerdoti siano nel mondo e sarei contraria a questo palleggio. Sono i sacerdoti, sono quelli, abbiamo avuto mille scandali politici ultimamente di gente che proprio sacerdoti non erano. Quindi io trovo che qualsiasi rimpallo di responsabilità e di colpe sbaglia il segno, nel senso che tutti siamo chiamati alla responsabilità, soprattutto sui ragazzi. C'è una secondo me la funzione genitoriale non spetta né solo ai genitori né solo agli educatori, ma è di tutti gli adulti, cioè i bambini e gli adolescenti sono figli della società adulta e tutti devono rendersi responsabili nei loro confronti, devono tutelare i loro diritti, la loro dignità. Smettiamola di dire che è questo o quello, la famiglia, la scuola, la chiesa o l'ospedale, diciamo l'assistenza sociale. Può accadere ovunque l'errore, la deviazione, ma prendiamoci ciascuno di noi la propria parte di responsabilità in quanto adulto. Egitti Finzi, c'è un'ultima cosa, anche se un'ascoltatrice ci ha scritto che lei conosce di un caso di pedofilia tutta femminile, diciamo così, perché è essenzialmente un fenomeno maschile, se è così, Egitti Finzi? Perché la sessualità femminile è più regolata proprio dalla finalità materna. La sessualità femminile risente ancora molto delle regole del corpo, basta pensare al richiamo della maternità che avviene per la maggior parte delle giovani donne in carriera nel momento in cui verrebbe meno la funzione procreativa, la fertilità. C'è un dialogo della donna col suo corpo che viene meno invece nel caso dell'uomo. La donna poi ha dentro di sé proprio questa programma di protezione del neonato, del bambino, che non è altrettanto forte e incisivo nel caso dell'uomo adulto. Cioè, abbiamo un ultimo minuto, volevo tornare da Vania Lucia Gaito, che è ancora collegata con noi e che, vi ricordo, si è occupata del tema della pedofilia nel suo libro Viaggio nel silenzio, per capire se alla fine di questo viaggio può dare una piccola strategia d'uscita rispetto alla gravità del fenomeno. Gaito, mi sente? Gaito, l'abbiamo perduta, attendeva da tanto tempo. Allora riprendo Silvia Veggetti Finzi, semplicemente per girarle quello che tanti ascoltatori ci scrivono. È la soluzione l'abolizione del celibato? È molto semplicistica come domanda forse, però dico, aiuterebbe? Ma io lascerei la scelta, cioè penso che la grandissima libertà dell'uomo consista nella possibilità di scegliere. Allora, senza demonizzare il celibato, che può essere una scelta, lo lascerei alla decisione e all'amministrazione della singola persona, alla sua responsabilità. Io sono contraria a queste proibizioni a priori, a questi veti, che sono veti che non tengono conto della singola persona, della sua economia psichica, sicuramente molto complessa, della sua storia. Quindi lascerei a ogni sacerdote la possibilità di gestire la sua biografia, perché questa mi sembra veramente una affermazione di soggettività. Io sono la mia storia, io sono quello che ho fatto e che farò, e questo non può essere delegato a nessuno. Grazie Silvia Veggetti Finzi. Grazie a voi. Noi ci risentiamo domani alle 10, adesso dopo il GR3. Anche Chiodo Fisso si occuperà di violenza. Come sapete, il filo rosso di questo mese è le ragazze, unirsi per fare cinema, mentre Radio Trescenza si occuperà di cambiamento climatico e di come ascoltano la musica i bambini piccoli piccoli, anche quelli che insomma hanno giusto un paio di giorni. Ernesto Alessandrucci cura la parte tecnica della città, tutta la città ne parla, la regia è di Piero Pugliese, la cura della trasmissione è di Cristiana Castellotti, in regia ci sono Cristina Faloci e Rosa Polacco. E noi ci risentiamo domani mattina alle 10. Thank you.